quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Quattro mattino di Alessandro Milan. Quando ti chiami Milan non puoi adattarti a normalità, non puoi volare basso. Brucia Roma, brucia Roma, coli romani. Brucia Roma, brucia Roma, coli cristiani. Care romane e cari romani, ho molto riflettuto prima di assumere la mia decisione. L'ho fatto avendo come unica stella polare l'interesse della capitale d'Italia. Brucia Roma, brucia Roma, cor Papa Tre. Sapendo che queste possono essere per legge ritirate entro 20 giorni. Eccolo, questo che deve stare. Immediatamente tornino a governare le logiche del passato e del meccanismo corruttivo mafioso che purtroppo ha toccato anche parti del Partito Democratico e che senza di me avrebbe travolto non solo l'intero Partito Democratico ma l'intero Campidoglio. Ma mentre solo lui sapeva suonare la cetra, noi altri se montanti a sparare. È andato e vorrei tranquillizzare tutti, lo fa lo stesso Ignazio Marino che oggi fa un'intervista alla Stampa. Dice a Massimo Gramellini alla domanda: ma allora lei ha 20 giorni per ripensarci? Ma si figuri, davvero chirurgo? So che quando il tuo staff ti abbandona non puoi rimanere in sala operatoria. Quindi tranquillizziamo, o non so se siete tranquillizzati da questo, magari siete dispiaciuti del fatto che Marino se ne va. Questa dei 20 giorni è così una bufala, una roba, come dire, sì, la legge prevede che ci sono 20 giorni per ritirare le dimissioni, ma non lo farà, non lo farà. Marino, licenziato! Combatteva per i diritti. Marino è l'ex sindaco di Roma. E la plebe lo seguiva mentre moriva. E allora dai, vi dividerete, sarete contenti in tanti, magari qualcuno sarà dispiaciuto o tanti saranno dispiaciuti, non so, scrivetecelo al 349-238-6666. Io lo dico, ma è una questione di mia forma mentis, di come sono io umanamente. Io provo sempre, sempre, sempre empatia verso chiunque, verso chiunque nel momento in cui questo chiunque cade o vive un dramma. Così è proprio un mio difetto caratteriale, non so, o un pregio, non lo so, solo così. Sono vicino a Ignazio Marino per la sofferenza che avrà comportato. Ma attenzione, perché Marino, lui lottava, c'ha delle minacce anche. Ha detto: adesso tiro giù tutti. Repubblica già ha buttato lì una piccola velina. Ecco qui, Marino ieri si aggirava in Campidoglio, mi cacciate. Ah, ecco qui la mail con cui Veltroni mi raccomandava Luca Odeven come capo dei vigili urbani. E poi adesso faccio il giro delle TV e dico tutto, tutti i nomi di coloro che mi hanno chiesto favori, ho segnato tutto. Ho segnato tutto sui miei quaderni, dice Ignazio Marino. Cari amici, 349-238-6666, questa è 24 mattino, sono le 6:32 minuti. Ed è venerdì per Lorenzo Nespoli, è venerdì per Peter Bescapè, è venerdì per tutti, anche per i nostri ospiti. Voglio salutare la nostra Chiaretta, Chiara Geloni. Eccola qui, liberata. Io penso che ieri dicevo, ma dai, secondo me inizia una resistenza oltranza. Oggi saremo, cioè ieri dicevo domani, cioè oggi saremo nel giorno più uno della resistenza di Ignazio Marino. E ci siamo andati vicini. Invece, però invece no. È finita. E lo dici con che tono, ridillo? Lo dico un po' arrabbiata. Arrabbiata, adesso cioè, spieghiamo il perché. Adesso spieghiamo il perché. Perché sei arrabbiata. Saluto anche il direttore della Croce, il nostro Marione Adinolfi. Ciao, buongiorno. Romano Doc. Romano de Roma. Romano testaccino. De Roma, testaccino. Sei soddisfatto? Come ti sei svegliato stamattina? Ma sempre juventino, ricordiamo. Sì. Sì, sempre Juventus, cioè ti sei svegliato sempre Juventus. Urca! Bello così serve pure a tenere quella po' di distanza, diciamo, da queste vicende. Non lo so come mi sono svegliato. A me ha un po' intristito tutta la scena dei vari tifosi, no? Ieri in sì. Campidoglio c'erano i tifosi di Marino, i tifosi di Casapound, i tifosi di Barchini, i tifosi. Quella scenetta lì con le piccole parrocchiette, peraltro tutte poco partecipate, che c'era in corso un dramma colossale per la città e qualche centinaio scarso di persone, insomma, si metteva in scena quella roba di lottare acriticamente con qualcosa, con qualcuno, però non ci ha fatto capire bene la densità di un dramma, un dramma. Città che incredibilmente da tanto tempo non riesce a trovare la squadra. È una città mangia sindaci, ma adesso vediamo un po' a capire anche Brucia Roma, Venditti era perfetto. Bravo il nostro Lorenzo Nespoli. Allora dai, apriamo il Parlamento. Che c'è da raccontare? Vado a prendere un caffè, quindi se non ci vediamo fermati. Caffè. Non lo so, perché sei arrabbiata, Chiara Geloni? Ti suggerisco questo: il PM Alfonso Sabella, che era assessore con Marino. Mi stai avvertendo cosa ha fatto il PM? No, Alfonso Sabella. Prima che tu parli. Alfonso Sabella, magistrato, assessore di Marino e probabile, dice Repubblica, commissario di Roma. Adesso per portarla alle elezioni, è il nome più gettonato, ha detto: l'unica tristezza è che cadiamo per qualche bottiglia di vino. Io ieri l'ho detta così, alla fine, ieri mattina a quest'ora, dice, alla fine cadrà mica per le buche, l'immondizia, ma per una gricia, due salti in bocca e tre scottadito. E io mago! Ecco, Chiara, perché sei arrabbiata? Allora, perché questa storia è un precedente pessimo, ma guarda, io non ho votato Marino alle primarie, ho votato per David Sassoli, sì. Non mi è piaciuta la sua campagna elettorale, non mi piaceva lo slogan "non è politica, è Roma", perché invece penso che se uno si candida a fare il sindaco di Roma è politica, non mi è piaciuto il modo un po' furbo con il quale il PD di Roma ha scelto di sostenere un outsider che non era un outsider, perché Ignazio Marino era uno che si era candidato a fare il segretario nazionale del PD, e aveva la sua corrente nel PD, aveva i suoi uomini, il suo peso, era un politico che faceva da diverso tempo ormai il senatore e non certo una specie di Marco Valdo preso per strada. Detto questo, cacciare via un sindaco con una campagna di stampa in cui abbiamo visto di tutto, abbiamo visto dei ristoratori che si ricordavano cosa aveva mangiato Marino il 4 ottobre del 2012. Sai cosa ha detto? Sapete cosa ha detto Ignazio Marino nell'unica intervista oggi che concede alla stampa? È questo: se non mi beccavano con gli scontrini, mi avrebbero messo la cocaina in tasca pur di cacciarmi. La cocaina in tasca, come si fa, come si vede nei polizieschi americani, no? Mamma mia. Se posso, insomma, purtroppo io non credo che questa vicenda interpelli tanto, come si diceva ieri, il Presidente del Consiglio, che ha deciso, dopo aver provato inutilmente per 4 mesi a delegittimare Marino, ieri ha deciso il game over. Questo è un problema del segretario del PD. Cioè, questo PD, tutte le volte che si trova di fronte a un problema, esce con un'immagine devastata, con le macerie. Perché adesso Marino dice, adesso tiro fuori i dossier, i ricatti, le cose che ho subito. E l'immagine del PD a Roma, io non so, adesso si va a votare, non so cosa immaginare che possa succedere. Non lo so, Marione, qua c'è una gufa, che abbiamo invitato una gufa. Non viene guidato questo partito, viene lasciato alla guerra per bande, ogni volta, non è la prima volta che succedono cose. È così, caro Marione, ma non so la gente quanto è interessata a cosa succede nel PD a Roma, però è una cosa... La roba del PD interessa, diciamo così, agli appassionati di politica. Il problema è che la questione di Marino, insomma, gli scontrini non erano una cavolata, insomma, per carità. La comunità di San Sicilio, ho invitato l'ambasciatore vietnamita, e questi ti smentiscono. È andato a fare la cena con i parenti in qualsiasi democrazia al mondo, tu il minuto dopo non esisti più. Ma infatti non è da giustificare, lo stesso Sabella, caro Marione, dice sì, per carità, infatti io imputo leggerezza a lui o al suo staff, perché lo stesso Marino dice non escludo, io ho presentato le ricevute, non escludo che sia stato qualche errore di chi ha compilato i giustificativi. Diciamo cavolate, questo era purtroppo oggettivamente inadeguato dal punto di vista politico proprio. E voglio dire anche di personalità, questo si è sostanzialmente fregato da solo, pubblicando da solo in un momento di ibris, andando da Formiglia dicendo ecco qui adesso pubblico tutte le ricevute e senza capire quello che faceva. E si è fottuto, oggettivamente una debolezza che è anche riverberata in questa storia, adesso tiro fuori dei mail, è roba da poverezza. Comunque, dimmi come ha reagito Roma, perché oggi sul Messaggero, dai, ditecelo così, il polso, la gente, sul Messaggero raccontano... Roma è tulta, dai, non diciamo solo Roma. No, perché pare che vinca anche l'ironia, la battuta che circola è se mangiano pure il rimpasto, se mangiano pure il rimpasto. È chiaro. Roma è la città... Ovviamente è mille volte più grave quello che si sono mangiati di questa città, evidentemente, piuttosto che l'amarone o la gripe. È evidente che quello è il problema, ma il romano medio non sopportava più. Non sopportava più. Ecco, Chiara, al di là della politica, il romano medio diceva c'è la buca, c'è l'immondizia. Cioè, è chiaro questo, cioè che Marino, se avesse avuto delle capacità di governo della città e anche di gestione politica della sua maggioranza diverse da quelle che ha dimostrato di avere, probabilmente non si sarebbe trovato al centro di questa campagna, insomma, e forse avrebbero avuto un peso anche diverso dei fatti oggettivamente su cui è giusto esprimere dubbi, perché certo che insomma, se fosse vero che questi scontrini sono falsi, come sembra, sono cose che vanno certamente accertate, ma il problema di Marino, adesso al di là della sua battuta sulla cocaina in tasca, che io un po' penso sia fondata, è stato di non essersi dimostrato capace di fare il sindaco di questa città. Questa è una tragedia, soprattutto questa è la cosa che conta. Il paradosso però è che non è che è cacciato per questo, per inadempienze politiche, per incapacità, poi ci deve essere sempre un casus belli, no? Qui, sai, lui quando giochi a fare l'impolitico, giochi a fare il moralizzatore, giochi a fare quello diverso, alieno, poi dopo non puoi pretendere che ti venga perdonata neanche la minima infrazione alle regole. Ci chiedono, ma lo giustificate? Ma no, ma non è che lo giustifichiamo, stiamo cercando di capire, però pare che Renzi abbia detto non gli ha voluto concedere neanche l'onore delle armi, capito Chiara? Neanche, cioè lui voleva almeno una dichiarazione pubblica di stima, Renzi era un po' tardi per e Renzi ha detto ieri. Se lo può però scordare. Io penso che Marino abbia ragione invece nel dire che se 4 mesi fa, invece di fare una battuta porta a porta dicendo, facendo capire che avrebbe gradito una sua uscita di scena, Renzi avesse cercato per via politica una soluzione concordata con Marino, forse si poteva non arrivare. Vabbè, diciamo, questa però è storia del passato. Allora, caro Marione, a parte dico una cosa, nel senso che ormai è andata così, cioè l'ha fatta la battuta. È storia del futuro, perché oggi comincia la campagna elettorale a Roma, Ah, questa sì. Caro Marione, fatemi un vostro gradimento. Caro Marione, a parte che uno ci chiede, ma come fai a essere nato a testaccio a essere Juventino? Ma ce l'ha spiegato mille volte. È nato male. È nato storto. Toccare il cuore, lui è una divertente. Dai, è sempre stato controcorrente, dai, lo sapete. Nasce a testaccio e ti fa la Juve. Che devi fare? Se no, che volete un Mario Adinolfi omologato come tu. Vabbè, chi vuoi come sindaco di Roma? Dai, anche a destra guarda, Marione, non guardare solo a sinistra. Questa è la cosa più tarda, a sinistra non guardate proprio perché non sarà di sinistra il proprio prossimo sindaco, quindi non c'è poco da guardare. Ma chi è che voglio vedere come fanno a trovare un candidato? Questa è la cosa diversa, che poi leggevo i totonomi, Orfini, Giachetti, e questi mica sono scemi. Però Renzi ha detto niente primarie, decido io, pare. Metterà un pupetto, perché poverino non era che poi. Ma come fa un pupetto sindaco di Roma? Ma dai. No, candidato sindaco, non fa il sindaco, non hai capito. Il prossimo sindaco non è del PD. È del Movimento 5 Stelle? È di destra? Questo dipende, che il 5 Stelle ha quelle strane regole che non ho capito bene. Se Di Battista si può candidare, non si può candidare. Ha detto di no, non vuole. Ma se Di Battista non si candida, se il 5 Stelle non. Ma che regole? Cioè, lo scelgono con i voti, no? Faranno una votazione online. Ma c'è una regola online secondo cui se tu sei parlamentare non puoi lasciare il posto da parlamentare e andarti a candidare a un'altra carica. Ma infatti oggi fa un'intervista a dire basta, me l'avete chiesto mille volte, non lo voglio fare, non me lo chiederanno e non sono io. È un'intervista per dire se gli amici me lo chiedono, è un vecchio schema che Chiara conosce bene. Per favore, candidatevi. Se gli amici me lo chiedono, faccio carico. Porterò questa fatica. Però ovvio che se non è Di Battista, secondo me, cioè il classico meccanismo grillino del candidare lo sconosciuto, stavolta non funziona. Ho l'impressione che non sia un meccanismo intelligente, a meno che non ci sia proprio un colpo di scena, che io ho sempre immaginato possibile. Io ho sempre detto Beppe Grillo dovrebbe fare il sindaco di Roma, sarebbe una cosa Beppe Grillo sindaco di Roma mi toglierei questa soddisfazione. Ma vabbè, ma questa questa dobbiamo twittarla, questa... Beppe Grillo sindaco di Roma, ve lo vedete, va dal Papa e si toglie una grande soddisfazione, e soprattutto scopre quanto è difficile governare al posto di chiacchierare. Beppe Grillo sindaco di Roma, una cosa complicata, insomma. Se non ci sarà, cioè il secondo genovese sindaco di Roma, continua la tradizione. Due genovesi a Roma non è possibile. Però un genovese non inventato da Gruffetto Bettini potrebbe avere più successo. Questo sarebbe una novità. Ecco, vabbè, ma invece a destra chi vedi? La Meloni, si dice Marchini, Alfio Marchini, Giorgio Meloni. Insomma, è tutto le dialettiche all'interno dei luoghi che possono vincere. Quindi il 5 Stelle ha questa dialettica per cui i nemici di Battista non vogliono farlo passare perché Di Battista vincerebbe. A destra c'è la dialettica tra il bello e la biotta, che sarà una cosa interessantissima, insomma, evidentemente che poi i nostri schemi giornalistici saranno interessati da questi due aspetti. Ovviamente si pesteranno i piedi l'uno con l'altro, chi esce vincitore da questi duelli rusticani si porta a casa una città. Il mio problema è l'impressione che non ci sia all'orizzonte il sindaco che risolve i problemi della città. Questo è il problema. Ecco, per te, Chiara, la questione di come governare Roma con i casini di Ama, Atac, delle municipalizzate. Vabbè, allora non governiamola più, cioè lasciamola. Servirebbe un commissario con pieni poteri. Io sono convinto che la democrazia andrebbe. Guarda, che ieri ce l'ha detto un ascoltatore: commissariamo di Roma, commissario per varie generazioni. Tu lo so che vorresti tornare al Papa, che io ho detto Roma. Che farei l'assalto e chiederei l'annessione allo Stato della Città del Vaticano. Eccolo là! Allora questo è troppo. Dopo Beppe Grillo, sindaco, andiamo al traffico. Poi Chiara Geloni chi vuole? Brum brum brum! C'è il traffico, Milan! Volsi così con là dove si può e ciò che si vuole e più non dimandare. Questa è l'Italia di oggi. Non so cosa abbia mangiato Marino, ma so cosa mangiano mediamente gli italiani. Pane e merda. Ciao signor Milan, tu deputata non lo puoi fare perché gli italiani debosciate non ti voterebbero, capisci? Che tu sei un capo dei debosciate. Ciao Milan, sei proprio un babà. Sto vedendo tutto quello che stanno dicendo del sindaco Marino, 12 euro per un astice, eccetera, eccetera. Allora, è vero che non è capace a far niente, che come parla sbaglia, che è un paperino, però tutta sta persecuzione non mi quadra, ci deve essere qualcosa dietro. Adesso c'è il complotto, capito Chiara? Però molti lo pensano, cioè, c'è qualcosa dietro, cioè, c'è qualcosa. Vabbè. Ma io penso che molti dispiaccia avendo fatto, adesso parlo dei romani, ma insomma fatto una scelta elettorale che forse volevano essere loro a giudicare ti ho detto, guarda, la pensi come me, l'empatia verso chi cade, l'empatia, però questo è già il passato. Questo è il passato. Chi vorresti come sindaco o chi farà il sindaco? Beppe Grillo, dice Maria Di Nolfi. L'ho già twittata. Beppe Grillo, l'ho messa anche a Beppe Grillo. Così. Adesso sono fatti tuoi. Allora, io penso che i grillini ce l'abbiano in tasca la vittoria a Roma, però devono trovare. Toccatevi un po', sto facendo. La stessa cosa che pensava Maria Di Nolfi prima della finale di Champions League, Juve Barcellona, dice ce l'abbiamo già in tasca. Guarda che Juventina pure Chiara. Devono però trovare un candidato convincente, perché io credo che dopo questa esperienza e anche dopo la precedente, che voglio dire non dimentichiamola, i romani vogliano affidare la città a qualcuno che abbia anche, dimostri anche, oltre a una certa popolarità, chiunque va lì, anche capace di prendere in mano i problemi di Roma. Ma si diceva, dopo i politici arriva Ignazio Marino, la società civile, chi? E avete visto com'è finita dopo 2 anni? Cioè, chi a questo punto è l'uomo che può, o la donna? Lo devo dire io. Di nomi non ne faccio. Anche perché, voglio dire, tutti i nomi che si fanno oggi, secondo me, non arrivano a finire la partita. Va bene, ragazzi. Per la sinistra la vedo bene, questi nomi che girano li vedo veramente benissimo. Sì, credo che... tipo Orfini, questi che li vedresti bene. Forse solo Francesco Totti potrebbe risollevare. Non è male, Marione, se tu hai proposto Beppe Grillo, perché non Francesco Totti? Io propongo Totti. Sono convinto. Per esempio, Mario, tu lo voteresti Francesco Totti, anche se sei juventino? No, perché il fratello c'ha un po' di storielle con... Mamma mia! Che c'entra il fratello? Però Totti mi è simpatico, io invece lo voterei. Lo voteresti? Di sinistra, mi è simpatico. Bisogna saper scrivere in italiano per fare il sindaco. Però sai quante belle barzellette che ci racconta. Comunque dai. Una cosa, guarda, è probabile. Secondo me, se esce fuori il candidato, come dire, questo appunto completamente fuori dallo schema partitico, ha ottime possibilità. Non sono sicura che debba essere uno che si dimostra completamente strano. Invece, penso che forse Non lo so, però non certo, però ce l'ha lì il nome? Adesso ce lo dice, adesso ce lo dice il nome, sì, abbastanza delegittimati in questo momento, quindi forse il Papa straniero si vuole, non lo so. Il Papa straniero, eccolo qua, vedi, vedi, vedi, vedi che alla fine arriviamo a Bergoglio, caro il nome, il nome. Candidato il nome è riuscire a trovare, doveva trovare un personaggio molto, per esempio, uno che funzionava parecchio nella fase Presidente della Repubblica, era Giancarlo Magalli. Pensate se qualcuno si inventa un'operazione. Io oggi su Roma, oggi un'operazione Sberleffo vince a mani basse nelle urne. Giancarlo una Magalli. Campagna sai che io non vedo l'ora. Sai che allora preferirei Beppe Grillo a Giancarlo Magalli. No, no, però magari Grillo non vuole farlo perché Grillo è intelligente, sa che governare è un macello e sì, non si espone a questa cosa. Ma te lo vedi? Magalli non è intelligente. Però guarda, ha espresso una certa tentazione nella fase Presidente della Repubblica, era stato candidato al Fatto, ti ricordi? Il Fatto Quotidiano. Sì, come no, come no. Per certi versi nobilitato. Secondo me Magalli un pensierino ce lo fa. Un'operazione di queste, diciamo, completamente spurie potrebbe avere una, con questo clima che si è creato in città, potrebbe avere successo. Va bene. Comunque, guarda, quella di Beppe Grillo, secondo me è una genialata. Bisogna pomparla un po', devi insistere. Io ho già scritto a Beppe Grillo, nel senso su Twitter, speriamo ci caschi. Temo di no, ma speriamo ci caschi, perché sarebbe bellissimo lanciare Beppe Grillo sindaco di Roma. Vabbè, dai, del sindaco poi parleremo anche dalle 8:15, ovviamente. Ci sarà con noi Oscar Giannino, come sempre, ma dopo il giornale radio avremo la rassegna stampa prima alle 7:15. Vi ringrazio, Mario Adinolfi, Chiara Geloni, in attesa di capire chi sarà il sindaco o la sindaca di Roma. Vedremo. Sono Maria Latella e la domenica mattina finora potevamo incontrarci in TV. D'ora in poi invece ci troveremo anche su Radio 24, ogni domenica mattina alle 10, per parlare di donne perfette, imperfette, aspiranti alla perfezione e di come ci vedono gli uomini. Vi aspetto ogni domenica mattina alle 10 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Formaggio Gran Moravia, l'unico con l'etichetta multimediale della filiera ecosostenibile. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta Alessandro Milan, che leggerà le notizie in una maniera che non potrete rifiutarvi. 24 mattino. Forza ragazzi, forza che è venerdì, forza ragazze, dai che è venerdì, ragazzi e ragazze di tutte le età. Ale, siamo qui con Oscar Giannino, dalle 8:15 parleremo della vicenda del sindaco di Roma, ovviamente, o l'ex sindaco di Roma, bisognerebbe dire. Ignazio Marino si è dimesso ieri alle 19:30 dopo l'ennesima giornata iniziata con la sua pena. Le pene dei ristoratori che smentivano, o dei presunti compagni di Desco che smentivano di avere cenato con lui. Dopo una giornata convulsa nella quale Marino ha cercato di resistere, ha detto: va bene, lascio. Oggi questo è il tema più affrontato dai giornali, ma avremo anche ospiti per parlarne. Avremo Roberta Lombardi del Movimento 5 Stelle, avremo l'assessore, o meglio ex assessore, Stefano Esposito del PD, è anche senatore, è uno dei primi che ha detto abbandono perché non ci sono più le condizioni, e di lì a poco poi ha lasciato anche Ignazio Marino. Ma questa è la notizia che trionfa sui giornali che andiamo a leggere. In questo venerdì 9 ottobre i titoli, le aperture, a parte il Sole 24 Ore che mette comunque in grande evidenza in prima pagina la vicenda Marino, ma apre su Volkswagen, perquisizioni in impianti e case private, la polizia nelle fabbriche del gruppo e nelle abitazioni dei dipendenti. Questo succede in Germania. Gli altri titoli sono tutti su Roma. Corriere della Sera, Marino lascia e avverte, tiro giù tutti. Repubblica, Roma, Marino licenziato dal PD, mi dimetto, ma posso ripensarci. Questo è il titolo di prima pagina. È un po' un equivoco. Marino ha detto ci sono 20 giorni per ritirare le dimissioni, ma spiega tutto nell'unica intervista che rilascia. Lo fa La Stampa con Massimo Gramellini. Marino lascia, temo torni la mafia. Tra poco la leggeremo perché è l'unica intervista di Ignazio Marino e lì svela che in realtà la vicenda dei 20 giorni non è così veritiera, nel senso che non tornerà Marino sui suoi passi. Marino, la resa tra i veleni, è anche il titolo del Messaggero. Il Giornale invece titola Roma liberata. Libero, dimissioni per finta, Marino affossa Renzi, me ne vado ma ho 20 giorni per ripensarci, ma ripeto, non ci ripenserà. Il Fatto Quotidiano è Marino il mostro di Loch Ness, mentre Libero, Libero l'ho già letto, ovviamente è quello di Marino. L'ultima cena è per il Manifesto, mentre Avvenire sbandata capitale. L'Unità capolinea e mette la foto di Marino in bicicletta. Allora, dicevamo, il sindaco di Roma che si dimette e rilascia un'unica intervista a Massimo Gramellini sulla Stampa. Alle 9 di sera, il mostro Marino, eccolo qui. È da ieri che non mangio e non mi siedo, proprio come quando operavo. Ci avevano provato con la Panda Rossa, attacca subito così Marino, sentite. Ci avevano provato con la Panda Rossa, i funerali di Casa Monica, la polemica sul viaggio del Papa. Se non fossero arrivati questi scontrini, prima o poi avrebbero detto che avevo i calzini bucati o mi avrebbero messo della cocaina in tasca. Questa frase è clamorosa. Ignazio Marino dice: pur di cacciarmi mi avrebbero messo la cocaina in tasca. Mi hanno pure accusato di aver pagato con soldi pubblici l'olio della lampada votiva di San Francesco, il patrono di Tana, per farmi bello, senza sapere che centinaia di anni che il sindaco di Roma accende quella lampada. Senta però, queste ricevute, ho già detto che sono disposto a pagare di persona 19.704,36 euro di regalo al Campidoglio. Sì, però quelle note spese sono bugiarde oppure no? Chiede Gramellini. Io non so cosa ci hanno scritto sopra, risponde Marino. Ho consegnato gli scontrini agli uffici, come si fa in questi casi. Non escludo che possa esserci stata qualche imprecisione da parte di chi compila i giustificativi. Vabbè, qui scarica le responsabilità sul suo staff, dai, diciamola chiaramente. Allora, da Renzi si attendeva qualcosa di diverso? Non ho avuto l'opportunità di parlare col Presidente del Consiglio, non ho potuto conoscere qual è il suo giudizio. Lei però ha presentato le dimissioni dicendo che in base alla legge ha 20 giorni per ritirarle. Cos'è una minaccia? Ma si figuri, risponde Marino. Prendo atto che PD e SEL hanno chiesto le dimissioni e un chirurgo non può restare in sala operatoria senza il suo team. Senta, ma qualcuno starà festeggiando, secondo lei? Sicuramente. Eppure oggi ho visto tanti volti rigati dalle lacrime. Alfonso Sabella, assessore magistrato, mi ha detto che non piangeva così da 35 anni. Lei sta anche scrivendo un libro sull'esperienza di sindaco. Guardi, questo incarico meraviglioso mi ha procurato problemi familiari enormi. Proiettili in busta e perdita della libertà personale. E infine dice: diciamo che il comportamento di una parte della classe dirigente non mi ha entusiasmato. Questo il sindaco Marino, pur di cacciarmi mi avrebbero messo in tasca. In realtà raccontano in retroscena di chi non lo intervista, di chi non ha sentito la sua viva voce, che c'è un Ignazio Marino pronto a tirare giù tutto. Ecco per esempio la piccola velina che passa a pagina 2 di Repubblica nell'articolo di Giovanna Vitale, quando a un certo punto gli si presenta nel pomeriggio in una giornata convulsa Orfini a dirgli: caro Ignazio, devi mollare, basta, ti abbiamo abbandonato tutti. Al che lui dice: ma io non sono un ladro, ho sempre lavorato per il bene della città, non potete trattarmi così. Cioè un Marino che tenta l'ultima resistenza e poi, turbato, offeso, umiliato, dice: bisogna reagire. E sul tavolo compaiono fogli e quaderni colorati. Questa frase attribuita a Marino su Repubblica è testuale così: ecco per esempio la mail con cui Veltroni mi raccomanda di assumere Luca Odeven, capo dei vigili urbani, dice. e in queste schede ci sono tutti i favori che in 2 anni mi hanno chiesto consiglieri comunali, esponenti politici. Provassero a cacciarmi e dalla prossima settimana farò il tour delle trasmissioni televisive e mostrerò tutto perché sono stufo. Quindi questo era Ignazio Marino alle 16:17 di ieri. Le minacce di fare i nomi, è il titolo anche di pagina 3 del Corriere. Basta, ora farò i nomi. Lo psicodramma del sindaco che avverte il partito. Se mi cacciate, dirò chi del PD mi ha proposto Mirko Coratti e Luca Odeven come vice sindaco e comandante dei vigili. E su Repubblica in realtà c'è il nome Veltroni, dice Repubblica, ex sindaco, ex capo del PD, segretario del PD, Veltroni, che propone Luca Odeven, finito poi in Mafia Capitale, a capo dei vigili urbani. Ovviamente è una versione, è la versione che Repubblica attribuisce a Marino. Insomma, un Marino arrabbiato. Per la verità, colui che aveva il volto rigato dalle lacrime, secondo Ignazio Marino, cioè Alfonso Sabella, magistrato di lungo corso e che per un po' di tempo ha fatto il magistrato, l'assessore alla legalità del Comune di Roma, viene intervistato da Giovanni Bianconi a pagina 2 del Corriere della Sera e dice: non si poteva continuare. Peccato, perché tutto va in malora per un vino da 55 euro. Lui, Marino, dice l'assessore Sabella, non ha cercato di resistere, ha solo provato a capire se c'erano le condizioni per andare avanti. Capisco che far passare Marino per fesso è diventato lo sport nazionale, ma le assicuro che non lo è per niente. La cosa che mi fa più rabbia, a me come a lui, è che stavamo facendo qualcosa di importante. Tutto va in malora per una bottiglia di vino da 55 euro. Però, scusi, di chi è la colpa? Certamente si tratta di una leggerezza, non so se di Marino o del suo entourage, e per me rimanere al fianco di un sindaco sottoposto a indagine per peculato e falso in atto pubblico era complicato. Probabilmente, se non fosse caduta la giunta, me ne sarei comunque andato io. Dice poi Sabella: l'assalto mediatico è stato incredibile, stiamo parlando di spese di 19.700 euro, cifre esigue, perché con tutto il rispetto di quanto hanno speso gli altri sindaci non sappiamo nulla, ma non sarò io a nascondere la gravità dei reati ipotizzabili. Purtroppo, per i fatti da cui sono trascorsi anche 2 anni, questa dimostrazione al millesimo non era possibile. Insomma, Marino cade. Chi ci sarà? Già si fanno i nomi. A sinistra, secondo il Corriere, Renzi sceglierà il nome senza primarie, anche se tutti guardano, come dire, ad altre lidi. Ci sono a destra Giorgia Meloni, che si scalda, Alfio Marchini, i nomi più ipotizzati, A sinistra Renzi, che ieri ha detto, sentite bene quando gli hanno detto di Ignazio Marino: intanto lo abbiamo tolto di mezzo, perché così non si poteva proprio più andare avanti. Questa frase è attribuita da tutti i retroscenisti a Matteo Renzi. Tra l'altro, racconta il Corriere della Sera, pagina 8, nell'articolo di Maria Teresa Meli, a un certo punto Ignazio Marino avrebbe tentato di avere almeno l'onore delle armi, una dichiarazione pubblica di stima da parte del Premier, e Renzi ha risposto: per quanto mi riguarda, se lo può scordare. Chiudiamo questa brutta storia al più presto, così possiamo guardare a domani. Cioè, quindi Renzi proprio asfalta Ignazio Marino, non gli concede neanche l'onore delle armi al momento della caduta. E a chi guarda Renzi, i nomi sono Roberto Giachetti, se si guarda alla politica, ma anche Giovanni Malagò, presidente del CONI, così scrive il Corriere, Dario Franceschini, il ministro, ma Raffaele Cantone, ma spuntano anche altri nomi come Mauro Moretti. Mentre il 5 Stelle intervista Alessandro Di Battista su Repubblica da parte di Annalisa Cuzzocrea. Il 5 Stelle dice: ora tocca a noi, siamo noi che dobbiamo prendere in mano la situazione e cercare di imporci. Ora tocca al Movimento 5 Stelle. Di Battista dice: io non sono in corsa, mi avete fatto questa domanda centinaia di volte, non è mai stata una mia aspirazione. Sul piano nazionale il movimento cresce grazie alle proposte che porta avanti, come quella sul reddito di cittadinanza, e a Roma dobbiamo fare lo stesso, emergere con il nostro programma e le nostre proposte. e Repubblica chiede: ma guardi Di Battista, che lei ha davanti un'occasione imperdibile, si tira indietro, ma mi creda, non ho mai avuto le ambizioni da sindaco, né penso sia giusto lasciare il ruolo di parlamentare, è serio che io concluda il mio mandato. E ma se glielo chiedono Grillo, Casaleggio, non ci sarà mai una richiesta di questo tipo, noi non siamo uguali ai politici del PD che usano le istituzioni come fossero autobus o che lasciano una poltrona per accomodarsi su un'altra. Dunque Di Battista, almeno apparentemente e pubblicamente, se ne tira fuori. Vabbè, lasciamo per il momento Roma, dai, magari ci torneremo sicuramente più tardi alle 8:15, se si riesce anche in qualche altra lettura, ma intanto voglio leggere l'articolo, anche oggi c'è, che ci fa più della giornata, l'articolo che mi fa tenere le mani sul microfono, a me e a voi le mani sul volante. Succede a Belluno e lo racconta il giornale. Al controllo è tutto in regola, ma l'INAIL gli chiede il conto. Succede a un commerciante di Belluno. Quando si dice cornuto e mazziato, scrive Nadia Muratore a pagina 15 del giornale, non solo ha subito un'ispezione da parte degli ispettori dell'INAIL, ma ha dovuto pagare per essere controllato. Succede a Belluno, commerciante, arrivano gli ispettori dell'INAIL, tutto a posto, tutto in regola, beh, che bello. E gli ispettori gli presentano il conto, 480 euro. Il commerciante strabuzza gli occhi e dice: ma come mai, è tutto a posto? È il conto per il lavoro fatto. Ma come? Dice: ma non è una multa, il conto da pagare per aver subito il controllo da ispettori dell'INAIL che sono pagati dallo Stato. La vicenda ovviamente viene presa in mano dal direttore dell'ASCOM di Belluno, che dice: è una vergogna, questi sono pagati da chi è controllato ed è veramente una beffa che non possiamo accettare che anche chi viene controllato, e peraltro tutto in regola, debba pagare. Al controllo è tutto in regola, ma l'INAIL gli chiede il conto. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice: sono cose che capitano. Alessandro Milan, la polenta e rosei dell'informazione. Oh, la polenta Eusei dell'informazione, questa mancava, mancava, cari ascoltatori. Allora, cerchiamo di mettere ordine, la politica è stata un pochino sospesa, se volete, almeno nelle pagine dei giornali, perché la vicenda di Ignazio Marino ha catalizzato tutta l'attenzione, quindi insomma la giornata politica sui giornali oggi è raccontata soprattutto attraverso quello che succede a Roma. Ci sono vari articoli però che vi voglio segnalare. Una partita dall'economia. Sapete che l'INPS sta studiando una sforbiciata ai trattamenti retributivi pensionistici più elevati, cioè coloro che hanno preso la pensione la prendono col vecchio metodo, oltre una certa cifra, e si sta pensando di dare magari una sforbiciata. Questo almeno è allo studio, vedremo nella legge di stabilità. Oggi Sergio Rizzo pubblica un interessante articolo a pagina 13 dal titolo Baby pensionati. È uno studio che ha fatto per la verità Mario Baldassarri, economista, ex vice ministro, oggi animatore del Centro Studi Economia Reale. Ed è l'articolo, è a pagina 13 del Corriere. C'è un pezzo d'oro dentro quasi ogni pensione italiana. Ci credereste? Anche nelle più modeste c'è del metallo prezioso, e questo metallo prezioso è sotto forma di soldi che ci mettono lo Stato e i lavoratori iscritti all'INPS per compensare la differenza tra l'entità dell'assegno pensionistico e quello che spetterebbe davvero al pensionato sulla base dei contributi versati. Il concetto può sembrare complicato, ma è questo. L'INPS sta studiando una sforbiciata ai trattamenti retributivi più elevati. Allora Baldassarri si è preso la briga di calcolare proprio quant'è questa differenza, quanto paghiamo in più di pensioni a ogni singola pensione, perché si paga col vecchio metodo retributivo, e invece quanto si pagherebbe ora col contributivo. Prendiamo il caso dei baby pensionati, tanti. Chi avesse cominciato a riscuotere un assegno di 1000 euro a 40 anni di età, con 17 anni di contributi versati e altri 45 di aspettativa di vita, sarebbe stato omaggiato dallo Stato e dagli altri lavoratori con 442.800 euro. E non è nemmeno il caso più estremo. Le cosiddette pensioni baby sono state eliminate più di 20 anni fa, ma di situazioni simili a queste ce ne sono diverse centinaia di migliaia. Per ogni 1000 euro di pensione, 820 vengono letteralmente regalate al pensionato che si trova in tali condizioni. Se 1000 euro al mese per un'aspettativa di vita di 85 anni fruttano a chi è uscito dal mondo del lavoro a 40 anni quasi 450.000 euro, per 2.000 euro di pensione si sale a 885.000 euro, per 3.000 euro di pensione si sale a una sorta di bonus di 1 milione di euro. All'opposto si collocano coloro per i quali la pensione retributiva, calcolata cioè il rapporto allo stipendio, coincide con l'assegno contributivo, vale a dire misurato esclusivamente sui contributi versati. Insomma, tutte queste proiezioni le trovate studiate da Baldassarri sul Corriere della Sera a pagina 13. Oh, questa è una notizia invece politica che viene dal Senato. Io la metto così, bisognerebbe iniziare forse il conteggio oltre che per le province. Oggi si chiude la 127esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Potremmo iniziare il conteggio per l'abolizione di parte delle regioni. Senato, primo sì al taglio delle regioni, pagina 9 del Messaggero. Ora si andrà, con un futuro molto anteriore, ora si andrà verso la riduzione delle regioni. Il governo ha accettato un ordine del giorno a firma onorevole Ranucci che spinge verso questa direzione. Le regioni diventeranno enti di pianificazione territoriale. Ci sarà un grande risparmio non solo economico ma anche di snellimento della burocrazia. L'obiettivo è averne non più di 10 e l'esecutivo, prima dell'entrata in vigore del DDL Boschi, dovrà prendere in considerazione come tagliarle. Ma permettetemi di essere vagamente scettico su questa vicenda. Ieri Renzi è andato a, prima a Bologna, è andato però anche a Modena, è andato al Museo della Ferrari, è andato a incontrare, raccontano i giornali, lo racconta per esempio il Fatto Quotidiano. Secondo il Fatto Quotidiano, tutto questo viaggio è stato determinato per andare dal banchiere della Fiat. Insegue la grande finanza a Modena per un incontro dei clienti della Merchant Bank di fiducia degli Agnelli. Matteo Renzi fa di tutto per incontrare Byron Trott, che ha aiutato l'ex degli Agnelli a compiere la sua operazione più importante, cioè la conquista del colosso delle riassicurazioni Partner per 6,9 miliardi di dollari lo scorso agosto. Un appuntamento non c'era nell'agenda ufficiale, ma che compare un po' così all'improvviso, scrivono Stefano Feltri e Carlo Tecce sul Fatto Quotidiano, per incontrare insomma il gota della finanza. Renzi va a Modena e a Bologna, mentre sempre per quel che riguarda la politica vi segnalo questo: Berlusconi contro il Premier. Sapete che si parlava di una sorta di inciucio nuovo, di una nuova rinascita del patto del Nazareno. Berlusconi invece racconta al giornale: ma che inciucio, io non mi fido assolutamente del Premier. Vabbè, come vedete la giornata politica è un po' scarna perché è tutta concentrata sulla vicenda Ignazio Marino, mentre certamente c'è un'inchiesta che scuote moltissimo la finanza, le banche, come racconta anche il Sole 24 Ore, il vicepresidente di Unicredit, ma anche altri incarichi. Palenzona, Fabrizio Palenzona, è indagato a Firenze. Sara Mona ci racconta tutto. È un'inchiesta dell'antimafia, addirittura della direzione distrettuale antimafia di Firenze, che mette sotto la lente gli interessi in Toscana di un imprenditore edile trapanese, si chiama Andrea Bulgarella, sospettato di complicità col super boss latitante Matteo Messina Denaro. E allora che c'entra in tutto questo Fabrizio Palenzona? Secondo un piano di ristrutturazione con un finanziamento da 60 milioni concesso a questo imprenditore Andrea Bulgarella, finisce nelle indagini Fabrizio Palenzona, vicepresidente di Unicredit. Il suo nome compare nell'elenco dei 10 indagati e l'accusa è associazione a delinquere finalizzata alla truffa, appropriazione indebita e impiego di beni provenienti da attività illecite. L'avvocato dice ipotesi totalmente infondate, ma insomma l'inchiesta è di quelle pesanti, di quelle che scottano, vero Mauro Meazza? Scottano, e quindi ti passo la patata bollente. Eccola. Buongiorno qui. Caro Alessandro, caro Mauro. Siamo tornati alle vecchie abitudini. Associarti ad avvocati. Oh, avvocati. Associarmi ad avvocati, poi imputazioni così, cose di poco conto. Cose risibili, no? Risibili. Sì, associazioni delinquere, mafie, insomma tutte cosucce, diciamo così. Vabbè, volevo dirti che anche in Germania, però non stanno scherzando, come vedi sul Sole 24 Ore, sì, è vero. Con perquisizioni anche nelle case per capire chi si è inventato questo software, chi ha deciso di montare questo software, finito poi sotto accusa in Volkswagen. Le case dei dipendenti però della Volkswagen, no? Sì. Non risulta che stiano guardando anche in casa tua, almeno non no, credo. A tu Roma hai ricevuto visite. No. Invece ecco, su Roma però guarda, capiti a fagiolo, perché su Roma volevo dirti, nel grande così bailam connesso alle dimissioni di Marino, sul Sole 24 Ore ho letto che ci sarebbe un problemuccio con le gare del Giubileo. Sì. Perché sai che c'è il Giubileo, e quello insomma proprio incombe, e ci sono 29 gare, ma ne sono state avviate soltanto 4 di quattro cantieri. Ma trovo, nel Giubileo è tra 5 anni, no? No, purtroppo è molto prima. È prima. Adesso ci sarà qualche problemuccio. Spieghiamo tutto, però, sul Sole 24 Ore. Così come se vai nelle pagine di finanza puoi leggere adeguatamente della quotazione in borsa delle Poste. Dovrebbe partire entro ottobre. Ti segnalo questo per i tuoi due eurini. Ottimo. Tanta pazienza, muoviti questi due eurini. Se proprio non ti va di metterli in borsa, se proprio non ti va, guarda, potremmo metterci insieme. Perché leggo sempre su Sole 24 Ore da Mariano Maugeri che a Venezia stanno pensando di mettere all'asta dei Klimt, dei dipinti molto preziosi. Ci vorrebbero una settantina di milioni, pare, per un Klimt. Prendiamocene un pezzettino, tagliamo un pezzettino della tela e prendiamocene un quadratino. Prendiamocene un po', no, io metto il resto, non ci sono problemi con la retribuzione che mi viene assegnata, figurati, per me non c'è problema. Anche perché potrei anche smettere di fumare. Nelle pagine di norme tributi, caro Alessandro, apprenderai anche tu quando religiosamente le leggerai, che fa grandi passi avanti, dovrebbe arrivare già settimana prossima, il recepimento della nuova direttiva antifumo, che con grandi restrizioni per le sigarette. Questa ti interessa molto, più a te. Purtroppo sì, non è un comportamento però esemplare il mio, devo ammettere questa debolezza. Senti, hai letto il libretto sul Jobs Act? Religiosamente anche questo. Religiosamente. Se per caso non l'avessi letto, sappi che lo trovi ancora, è acquistabile in versione digitale sul sito. Lo comprerò. Puoi regalarlo acquistando la versione digitale sul sito. Vai nella sezione Store 24, però si dice Store. Store, sì. Store 24. Ultimissima cosa, Voluntary Disclosure. Oggi cominciamo una guida in 4 puntate per la Voluntary Disclosure, così puoi far rientrare i tuoi capitali e ci compriamo il Klimt. Ottimo, poi lo teniamo una settimana per uno. Va bene. Buona domenica a te. Tutti. Traffico. Qua Baris dice che come legge le notizie Alessandro Milan è una corsa mondiale. Va bene anche a Milano, caro amico mio, mandateci le vostre sigle allo 02 46 52 44 92. Allora vi devo raccontare questa storia di cronaca che per me è dell'incredibile, proviene da Ferrara, dell'incredibile del 2015, ma incredibile anche sempre. Ma nell'asilo lavora una disabile e la mamma ritira la figlia. Succede a Ferrara, racconta tutto Franco Giubilei a pagina 17. La donna dice: non voglio che mia figlia stia con quella ragazza down. Nella sua cruda semplicità questa storia sembra riportare il calendario a tempi ormai lontani, in cui i down erano guardati con paura, emarginati. La giovane madre di una bambina di 10 mesi ritira la figlia dall'asilo nido in cui la piccola stava facendo l'inserimento, perché fra il personale della scuola lavora come ausiliaria una donna che ha la sindrome di Down. Un assistente che non ha incarichi educativi, svolge esercizi di pulizia, assiste le 3 educatrici nelle faccende di tutti i giorni, senza intervenire nell'attività pedagogica. Alla mamma però queste spiegazioni dal responsabile del nido, una struttura privata, non bastano. Non voglio che mia figlia stia con quella ragazza, ha ripetuto alla titolare, e in un'altra occasione con quella ragazza lì. Io sono sconvolto, tra l'altro sono anche un po', devo dire, anche lo dico al collega con affetto, ma c'è sempre questo errore. A un certo punto nell'articolo si parla della malattia, non è una malattia la sindrome di Down, è una condizione genetica, una caratteristica, non è una malattia. E, comunque la vicenda è che insomma questa mamma niente, nonostante le spiegazioni, nonostante l'intervento dell'assessore che dice questa famiglia ha perso una buona occasione, da parte della scuola c'era la volontà di dare un valore aggiunto, stanno facendo un grande lavoro anche inserendo questa ragazza, e davvero questa famiglia però non ha voluto sentire ragioni e addirittura starebbe valutando di fare una causa per eventuali danni morali perché non era stata avvertita la presenza di una ragazza con la sindrome di Down. Io sono sconvolto. Comunque la notizia è sulla stampa. Tra l'altro sulla vicenda della sindrome di Down c'è un altro articolo che invece è sul Corriere della Sera e proviene dalla Francia e riguarda la celebre rivista di Charlie Hebdo che ha fatto una vignetta offensiva nei confronti dei Down. Succede tutto, bisogna fare un passo indietro, quando una deputata, Nadine Morano, si presenta in un talk show e dice: la Francia è un paese giudaico-cristiano, lo diceva anche De Gaulle, di razza bianca. Questo è il retroscena, o meglio l'antefatto. Una deputata che dice, lo diceva anche De Gaulle, siamo un paese di razza bianca. Allora Charlie Hebdo fa una vignetta in cui mette De Gaulle che ha in braccio questa deputata Morano, e la didascalia di questa vignetta è in pratico Morano è la figlia Down nascosta di De Gaulle, perché effettivamente Charles de Gaulle aveva una figlia Down. Insomma, ha usato Charlie Hebdo la sindrome di Down per definire con disprezzo questa deputata, al che apriti cielo. Le associazioni di genitori che hanno figli con la sindrome di Down hanno scritto a Charlie Hebdo dicendo: vergognatevi, voi avete fatto questa vignetta per criticare le frasi razziste, ma siete diventati a vostra volta razzisti usando la sindrome di Down come se fosse una qualcosa di spregevole. Dovete vergognarvi. La vicenda è raccontata sul Corriere della Sera. Charlie Hebdo la faccio vedere anche in diretta su Periscope. Siamo in diretta su Periscope negli ultimi due minuti di rassegna stampa. Una bella storia invece, una storia positiva che proviene dall'Italia, perché è stato fatto il primo caso al mondo di un salvataggio con lavaggio del sangue, una tecnica ovviamente che io non conosco, medica, ma spiegata molto bene sul Messaggero, per cui un bambino di 7 anni che aveva una gravissima forma di allergia alimentare è stato ora salvato e può tornare a mangiare tantissimi alimenti che prima non poteva mangiare rischiando la vita ogni volta. Salvo col lavaggio del sangue, così Michele ritorna a vivere, è sul Messaggero, ma l'eccezionalità è che è il primo caso al mondo di un salvataggio di questo genere, quindi qualcosa di cui andare totalmente orgogliosi in Italia. È successo all'ospedale Bambin Gesù. Ho un minuto? Ah, sappiate che forse Santoro torna in Rai. È stato avvistato nei corridoi della Rai. Qui ci vorrebbe il basta di Oscar. Vabbè, comunque Santoro, dice Libero, forse torna in Rai. Chissà, chi lo sa. Ma siamo alla carta costa. L'articolo più inutile scovato sui giornali. C'è il film con Margherita Bui e Sabrina Ferilli che racconta un amore lesbo. E allora il Fatto Quotidiano va a vedere con Malcolm Pagani questo film con Carlo Giovanardi, per vedere le reazioni di Carlo Giovanardi. Si baciano la Bui e la Ferilli e Giovanardi ha la mano sul mento, ha la mano sulla fronte, è un po' perplesso. Ma chi se ne frega? Il segnale orario vi è offerto da Formaggio Gran Moravia, capolavoro della filiera ecosostenibile. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Questi politici bisogna attaccarli alla radro, e a guidare la radro sai che ci mettiamo Giannino ingazzato con una frusta a 9 code. Alessandro Milan, sempre breve e circonciso. Prendi 2 elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Ci siamo, caro Oscar Giannino, alle 8:18 minuti. Eccoci qua, caro Alessandro, grazie a tutti gli ascoltatori. Chissà che idea si saranno fatte questa mattina di questo pandemonio a Roma. Che dici? Di questo pandemonio che ha portato alle dimissioni di Ignazio Marino. Certo. Diamo subito il numero verde, parliamo di questo ovviamente oggi. 800 24 00 24. Roma non ha più il sindaco. Devo dire una cosa, io non godo delle disgrazie altrui. Sai che in Germania la chiamano, io non so il tedesco, ma Schadenfreude. Cioè il godere delle disgrazie altrui. Ecco, a me questa cosa non appartiene. A me un uomo o una donna in difficoltà, qualunque cosa abbia fatto, non mi fa godere. Quindi provo un po' di empatia in questo momento per Ignazio Marino. So che sono scomodo in questa posizione. No, secondo me io lo trovo comprensibile, perché poi è anche vero che questo avviene naturalmente con coloro che lo hanno eletto, sostenuto, che improvvisamente sono poi i suoi esecutori pubblici. Detto questo, certo, lui ha dato una potente mano. Senza dubbio. Oggi Marino fa un'unica intervista a Massimo Gramellini sulla Stampa e dice questa frase: pur di cacciarmi mi avrebbero messo anche della cocaina in tasca. Cioè, come dire, proprio qualsiasi pretesto pur di cacciarmi. Certo, lui qualcosa l'ha fatto un po' con questi scontrini, ballerini. Cioè, il peggior nemico dice ma è un caso veramente, secondo me, psicologicamente interessante. Se metti in fila tutte le sue gaffe, prevalgono sul giudizio politico in realtà. Questa roba degli scontrini è poi la goccia che fa traboccare il vaso, ma nella realtà quello che conta politicamente e che si vede in tutto ciò che c'è sui giornali, che viene ispirato negli ambienti di Marino ieri, è questo costante dire: adesso io ho i nomi di ciascuno di voi che mi chiedete i favori. Quindi il suo rapporto con il PD era un rapporto che non esisteva più. Addirittura ci sono delle veline sui giornali. Secondo Repubblica avrebbe detto ieri Marino: adesso svelerò che Veltroni mi ha spinto, mi ha raccomandato Luca Odeven, che è finito poi in Mafia Capitale, perché lo voleva a capo dei vigili urbani. Cioè, che farà adesso Marino? Regolerà i conti con qualcuno? So, perché quest'altra pulsione. Io, per esempio, così, da giornalista, attribuisco la regia di tutte queste cose alla sua portavoce diventata assessora, la Cattoni, che secondo me è in politica, perché questo tipo di vendetta sugli alleati, adesso vi roviniamo tutti, è la classica cosa che ti fa passare immediatamente nel rango di di un matto, come devo dire. Muoia Sansone con tutti i fili stessi. Sì, però vuol dire proprio seppellirsi a 100 km di profondità. Contemporaneamente ci dice che Marino davvero ai suoi diceva: ma guardate che cos'è il PD, io c'ho i nomi di ciascuno che mi promuove questo, che mi chiede quest'altro. Quindi un rapporto del tutto compromesso da chissà quanto tempo. Comunque, Oscar, vogliamo presentare il nostro primo ospite? Certo. Una persona che secondo me ha creduto tantissimo in questa operazione Marino. Si tratta di un magistrato di lungo corso, ha fatto l'assessore alla legalità, è Alfonso Sabella, che è con noi. Grazie, assessore, dottor Sabella. O ex assessore, evidentemente. Che poi ci ha messo anche credibilità a rischio in quanto magistrato, ad andare a Roma. Quindi. Allora, oggi lei sul Corriere della Sera ha parlato di leggerezza di Marino, perché partiamo dal punto finale. Alla fine è caduto per dei conti, anche se è la goccia forse che ha fatto traboccare il vaso. Lei definirebbe Marino semplicemente colpevole di leggerezza, oppure insomma c'erano dei reati ipotizzabili? Anch'io segnalo quali potrebbero essere le ipotesi di reato che possono astrattamente essere ipotizzate alla procura, ma non è quello il problema. Vede, in questi mesi si è fatto troppo di parlare di Marino e troppo poco di parlato di Roma, perché io ho accettato di andare a fare l'assessore alla legalità, tagliando, riducendomi di metà lo stipendio, perdendoci salute, sono finito pure in ospedale, perdendo qualunque tipo di mia vita privata e personale per Roma, per la mia città, perché purtroppo la situazione della legalità a Roma, la situazione del rispetto delle regole, la situazione della trasparenza, dell'efficacia dell'azione amministrativa era a ai minimi termini. Questo è il vero problema. E noi abbiamo perso mesi, anni a ragionare sulle gaffe presunte o reali del sindaco, su un vino da 55 euro che certamente avrà pure, potrebbe avere pure degli aspetti di carattere penale, seppur molto lievi. Ma dico, e invece abbiamo perso di vista quello che era Roma, l'obiettivo Roma. Però Roma, Sabella, lei in un'intervista di quelle appunto rilasciate da lei oggi sui giornali dice, fa capire che se non fosse avvenuto, se non si fosse determinata la condizione per cui si è dovuto non molto convintamente dimettere ieri sì. Marino, lei se ne sarebbe andato comunque, quindi dire, aveva oramai maturato un giudizio sul fatto che non era più possibile proprio cambiare sui punti di fondo. Due aspetti fondamentali. Una era recuperabile, secondo me, che è il problema della dirigenza della macchina capitolina. Purtroppo per me il problema fondamentale era questo. Ero pronto ad andare in giunta e avevo con la mia lettera di dimissioni, lo confesso, se non avessi avuto garanzie sul fatto che a Roma sarebbero arrivati una decina di dirigenti esterni, perché il tempo necessario per formare quelli attuali era purtroppo troppo lungo e incompatibile con le esigenze della città. Questo è un problema non mio, è un problema di Roma, è un problema che chi verrà dopo dovrà affrontare, perché la macchina amministrativa di Roma deve ripartire. Io in qualche modo, insieme ad altri assessori, siamo riusciti a fare dei miracoli in questi mesi. Cioè, ci sta miracoli. Dicendo che così com'è Roma non è governabile. No, glielo confermo assolutamente. Ma questa Roma, voglio dire. Ma l'ho detto dall'inizio. Sì, sì. All'inizio della mia avventura capitolina. Posso chiedere di spiegare meglio ai nostri ascoltatori? È un problema che riguarda alcune. Un esempio banalissimo. Un esempio banale, guardi, mi scusi. La gara per l'assistenza agli ipovedenti e ai non vedenti. L'abbiamo dato in affidamento diretto dal 1983. 32 anni per fare una gara mi pare che sia un tempo abbastanza assolutamente incompatibile con il buon senso. Ma da cosa dipende? Cioè, Oscar voleva sapere, assessore, con che esempio. Sono dirigenti apicali oppure dirigenti apicali e anche funzionari sotto? Quanto è pervasiva secondo lei la faccenda? La faccenda è gravissima perché vede, il problema del mancato rispetto delle regole apre autostrada alla criminalità. Quello che è avvenuto a Roma, che noi adesso chiamiamo mafia capitale, io chiamerei corruzione globale, perché quando noi andiamo al di là del fatto che sicuramente c'è un aspetto di carattere mafioso che la magistratura ha sradicato, veramente ha fatto un lavoro straordinario, ma al di là di questo il vero grande problema di Roma è che la macchina capitolina è troppo complessa e troppo fuori controllo. Abbiamo dovuto fare miracoli per elevare il livello dei controlli nelle zone critiche. Pensate che prima di noi i controlli venivano fatti per gli atti che comportavano impegni di spesa successivi a 200.000 euro, sì. Cioè la stessa soglia sotto la quale è consentito l'affidamento. Però questo è quello che lei ha toccato con mano, dottor Sabella. Sa che molti dicono Marino, quello che ho dentro è la rabbia. Per una stupidaggine, per queste cose qua, per queste leggerezze, per questo probabilmente, perché poi sicuramente chi conosce le macchine amministrative sa perfettamente come vengono liquidate questo tipo di fatture. Insomma, come lei dice, per 19.000 euro di cene le fa rabbia, ma no? 19.000 euro sono molte, ma sì. Molto, molto meno. Però le chiedo questo: Marino, si dice sempre, è una persona per bene. Lei metterebbe la mano sul fuoco anche adesso su Ignazio Marino come persona? Ignazio Marino è una persona per bene, è intellettualmente onesta, è moralmente corretto. Se lì c'è stato qualche leggerezza che ha fatto lui, ha fatto come ritengo più probabile, chi gli ha messo a posto i conti, chi gli ha messo in ordine le fatture, se lo vedrà la magistratura. Io ho scelto, prima di accettare questo incarico, ho fatto una mia analisi con le poche informazioni che avevo a disposizione. Io non conoscevo Ignazio Marino prima dell'8 dicembre, quando mi ha chiamato, sì, per propormi questo incarico, e ho accettato solo perché sapevo che erano ho verificato che fosse una persona onesta. E la sua onestà è quello che ha permesso di resistere a mafia capitale. È vero che lei lo dice, Marino, che lei ieri ha pianto quando gli ha comunicato le dimissioni, è vero o no? Io ho pianto prima, ho pianto di rabbia perché mi sono reso conto che purtroppo si rischia di mandare in aria il buon lavoro che è stato fatto in questi mesi. Che veramente è stato un lavoro che a me è costato tanto, a tante altre persone, altri assessori che hanno creduto in questa avventura è costato altrettanto, e che poteva consentire di cambiare Roma. Ho pianto di rabbia perché oggi vede, il fatto che noi sabato cominciamo ad aprire i primi cantieri del Giubileo, con tutte le critiche che ciascuno ci fa, ma se andiamo a valutarle esattamente, noi abbiamo avuto i soldi l'11 di settembre, in meno di un mese abbiamo fatto gare trasparenti, abbiamo con sistemi radicalmente nuovi, con il controllo, con una collaborazione quotidiana strettissima con l'ANAC che ha verificato passo passo senza farci perdere tempo ogni atto, e noi a distanza di meno di un mese apriamo i cantieri. Per chi conosce le regole amministrative capirà che quello si tratta di un miracolo. Allora, la domanda che le faccio, bella, è duplice. Da una parte, faccio l'esempio, no? Il titolo dell'editoriale Corriere della Sera di oggi, che secondo me non è che esprima cinismo, semplicemente tiene conto del fatto che c'è una frattura evidente, crescente, che si è creata tra Roma e i suoi cittadini e la figura e la credibilità di Marino. Quindi la sintesi del Corriere della Sera è dimenticare il marziano. Chiunque adesso si prefigga di fare qualcosa a Roma deve trattarlo come una specie di singolare figura quasi incomprensibile. E la seconda cosa che le chiedo per conseguenza: ma c'è possibilità di vederla a questo punto, passati i 20 giorni di legge, commissario a Roma, direttamente fare? No, cioè, non conosco nei minimi termini il testo unico degli enti locali, ma credo che la mia figura sia incompatibile, perché occorre che ci sia un magistrato in quiescenza. Repubblica dice che potrebbe essere lei. Ma non lo so, non so da cosa tragga quelle informazioni, e nessuno mi ha mai detto una cosa di questo tipo, e sinceramente avrei anche dei problemi piano proprio fisico ad affrontare l'impresa che è immane, perché veramente a me questi 9 mesi, 10 mesi passati in Campidoglio mi hanno invecchiato. L'hanno consunta, non tanto da diventare magistrato in quiescenza ancora. Quindi torna a fare il magistrato. Tornerò a fare il magistrato. Ma secondo lei resta che politicamente, per il PD come per chiunque dell'opposizione ci proverà, bisogna ripartire dal dimenticare il marziano, come dice il Corriere della Sera? Ma vedete, io non vorrei che il discorso di sparare a zero su Ignazio Marino sia l'alibi di tanti che hanno in realtà compiuto degli errori molto più gravi della legge di Ignazio. Cioè, ricordiamoci che cos'era il PD, a cui dobbiamo dare atto a Matteo Orfini di aver fatto un lavoro straordinario di ripulitura del partito, anche doloroso. Dalle interviste di oggi direi che lui è molto arrabbiato, Orfini, con tutti però, ma con tutti, non solo con Marino. È giusto, perché praticamente quello che era il PD alla prima di Mafia Capitale, cioè erano sostanzialmente gruppi sparsi che cercavano di mirare a colpire Marino laddove, e che erano pagati dai cattivi per far la guerra a Marino dentro il Consiglio Comunale, quindi all'ambientino non era dei migliori là dentro. Dobbiamo vedere chi gli altri partiti che adesso dicono tutti grandi censori di Marino e che si divertono e ridono sulle bottiglie di vino, sugli spaghetti all'aragosta, ma sono quelli che per 5 anni hanno consentito a Mafia Capitale di bivaccare e di pigliare il controllo dell'intera macchina amministrativa. La destra a Roma in effetti non è facile. Quindi lei dice che il rischio di dimenticare Marino è che non si torni al passato. Il problema è che forse sì, si potrà pure dimenticare Marino, ma io mi interessa molto di più che non si dimentichino gli errori che sono stati fatti in passato, e sono molto molto più seri. Certo. Delle cosiddette gaffe del sindaco o di qualche scontrino di cui non si trova la pezza. Allora, noi Alfonso Sabella la ringraziamo per essere stato con noi, insomma sono giorni anche buon ritorno in magistratura. Però secondo me Roma insomma si è avvalsa di lei, cioè ci pensi bene, ecco se glielo dire. Chiedono almeno ci pensi a fare il commissario. Ho improntato la mia vita a fare il servitore dello Stato, ho sbagliato, ho fatto errori, ho fatto cose buone e cose molto meno buone, ho arrestato un sacco di latitanti, ho fatto un sacco di lavoro nel contrasto alla criminalità, ritengo di aver fatto anche un buon lavoro all'interno del Ministero della Giustizia. Ho fatto questa scelta di venire a Roma, di assumere l'incarico assessore anomalo alla legalità all'interno della giunta Marino, proprio per quel mio senso dello Stato. Sì. Questo è l'unico mio obiettivo. Se in questo obiettivo ci dovesse essere qualche altro incarico, valuterò chiaramente. Non dice di no, valuterà. La consapevolezza dei miei limiti. Sì, però valuterà. Intanto la ringraziamo, dottor Sabella. Qui Oscar, ovviamente i centralini sono impazziti. La gente ci chiama, molti di Roma. Vogliamo sentire Piero da Roma, per esempio. Piero, buongiorno, lei che idea si è fatto? Sì, buongiorno. Io dunque premetto che ascolto sempre con piacere la trasmissione. Bene. Però ieri non mi siete tanto piaciuti come avete trattato Marino e il caso Marino. Perché? Io premetto, anche con quell'infelice uscita finale che Marino è genovese. L'ho fatta io una battuta. È una battuta. Ma perché lei è genovese? Sì, io genovese, però non mi offendo, perché intanto io scherzo sulla mia genovesità, se vuole le racconto qualche barzelletta. No, magari, ma non c'è tempo. Allora, o sui carabinieri, dicevo, ecco, adesso ci chiameranno i carabinieri incazzati. Io sono genovese, però abito a Roma e vivo a Roma da 50 anni. Ma di Marino che pensa? Lei lo difende o no? Di Marino io penso che finalmente c'era una persona per bene, come Sabella ha confermato, e io confermo tutto quello che ha detto Sabella, cioè mi è piaciuto molto, e finalmente c'era una persona per bene che stava cercando di fare piazza pulita di tutto il malaffare, eccetera, eccetera, e ci stava anche riuscendo, ma bisogna dare il tempo per farlo, dice che ci vogliono due legislature per fare le cose. Ecco, e naturalmente l'hanno mandato via. Va bene, però idioti, Piero, mi scusi, la battaglia solita con disinformazione, perché si dicono le cose che però poi Piero, scusi, no, ma è stato chiaro, però Piero, e coinvolgo Oscar, ma questi scontrini, cioè voglio dire, questa è la pandina rossa, per carità, saranno peccati veniali, siamo abituati in Italia purtroppo anche a scandali maggiori, ma c'erano questi scontrini, cioè a mangiare con ma la moglie, Piero, che dice, ma erano delle trappole che gli tendevano, cioè quello di certo, sì, ma certo, hanno cominciato con la panda rossa, capisce, ma perché trappole di chi, cioè scusi, complotti, trappole di quelli che sono riusciti a farlo fuori, tutti la solita gentaglia, la solita che aveva gentaglia in mano le cose a Roma e che continuerà ad avercele. Questa è la mia idea. Speriamo è di no idea. Però grazie, nella sua idea, Piero, significa che tutta la gente intorno, i suoi più stretti collaboratori, rispondevano a terzi, per così dire, cioè e quindi è un'ipotesi per il quale uno deve mettere... c'era una rete di un'enorme piovra che in questo caso risponderebbe al PD, a pezzi del PD, però anche lo stesso Sabella ci ha detto che chi era a fianco Marino, collaboratori, non sa se lui o i collaboratori sulle pezze giustificative avrebbero messo. Cioè l'accusa è grave, vuol dire che qualcuno all'interno remava contro. A me pare inverosimile che il collaboratore del sindaco dice, mette al posto della moglie, dice mi invento l'ambasciatore del Vietnam, esatto. Dai, non lo so. No, anche a me pare inverosimile, però siamo abituati all'Italia, a tutto, caro Oscar. Ovviamente dopo la pubblicità, rientriamo, ci sono gli ascoltatori, avremo un'altra ospite, si tratta di Roberta Lombardi del Movimento 5 Stelle, perché molti guardano al 5 Stelle a dire forse l'occasione è nello sfascio di tutti gli altri. C'è chi lavora per loro, come è evidente, anche a Roma, come a livello nazionale c'è chi lavora per loro. Cioè il sindaco potrebbe essere il prossimo sindaco del Movimento 5 Stelle, lo chiederemo a Roberta Lombardi, state con noi, 800 24 0024. Siamo qui, 8:39 minuti, Oscar Giannino, Alessandro Milan. Eccoci tornati. Vogliamo sentire Antonio da Modena prima di presentare un nostro ospite. Antonio, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, io credo che questa sia un'opportunità da non perdere per riflettere su un fatto. Il fatto è che io sono un romano che vive fuori Roma da 20 anni e sono rimasto sorpreso sia ascoltando ieri sera Esposito che oggi Sabella, al quale va tutta la mia solidarietà per quello che ha detto, per come lo ha detto, ma sono rimasto sorpreso dal fatto che molti giornalisti, anche loro, cioè due addetti ai lavori, siano rimasti a loro volta sorpresi dal fatto che Roma sia una città ingovernabile. Mm. Che Roma sia una città fuori governo è di tutta evidenza a tutti i romani e a quelli che vivono Roma da almeno 20 anni. Sì. Andate a riguardarvi nel tempo quello che è successo per gli scioperi dell'accesso ai musei, certo, i crolli degli edifici storici, i campi nomadi a dismisura, la famiglia Casamonica nota da 40 anni a Roma. No, no, ma Antonio, certo che sì. Fare un elenco che si dovrebbe fare, quindi Antonio, allora, lasciarla andare a se stessa? No, non facciamo provocazioni. Se non è governabile. Non è governabile, fino ad ora chi è stato scelto per mettere rimedio a questa cosa non è stato in grado di farlo, ma perché è un problema che ormai è talmente radicato, è talmente difficile da estirpare, che francamente intravedere una soluzione in un commissario o in una nuova, come dire, governance affidata ai 5 Stelle mi sembra, come dire, una soluzione che non c'è. Che non c'è. Lei non ha una soluzione, cioè perché per lei non esiste la soluzione. Per noi giornalisti far riflettere chi ci ascolta o se uno scrive, chi legge, sul fatto che dopo 2 anni e mezzo di giunta scelta dalla sinistra del PD, apposta con la società civile per dare l'idea che c'era discontinuità, per immergere il coltello nella novità amministrativa da creare, sentirsi dire dopo 2 anni e mezzo, dopo che è passato un po' di bel tempo rispetto ai fascicoli di indagine di Roma Capitale, guardate che ancora adesso non solo i dirigenti apicali ma moltissimi funzionari sotto restano, come ha detto ieri sera l'assessore Alfredo, compromessi e collusi, allora è ovvio che noi saltiamo sulla sedia, ma non perché non sappiamo di Casa Monica, l'ingovernabilità di Roma eccetera eccetera, ma perché gli anni passano e anche coloro che di volta in volta prendono l'incarico di cambiare, quando vanno via dicono guardate che qua è ancora tutto da fare, sì. Ecco, questo è il punto. E infatti Sabella ha detto sarei rimasto con dirigenti esterni che vuol dire gente che non aveva, come dire, le mani in pasta da anni lì e che può essere sostituita. Però vogliamo salutare Roberta Lombardi, onorevole del Movimento 5 Stelle, buongiorno e benvenuta. Grazie, buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, Roma ingovernabile, insomma, questo abbiamo capito, almeno ci ha detto Sabella, è governabile dal Movimento 5 Stelle? Perché adesso guardano molti a voi a dire ecco ci siamo noi del Movimento 5 Stelle, ma davvero esatto. Ci credete? Assolutamente sì, Roma è assolutamente ingovernabile da parte di chi non vuole andare a toccare determinate clientele che hanno fatto poi la fortuna della campagna elettorale di questi signori. Noi le dico una cosa che ci viene chiesta molto spesso: chi è il nostro candidato sindaco? Io le dico, il nostro candidato sindaco si chiama signor 1 miliardo di risparmi immediati che noi siamo andati a trovare nel bilancio del Comune di Roma attraverso la commissione sulla spending review vera presieduta da un mio collega consigliere, e che da domani, dal momento stesso in cui entra un sindaco 5 Stelle, possono essere appunto risparmi messi a servizio della collettività. Però capisci, mettere a sindaco 1 miliardo è un po' difficile, cioè ci dovrà essere una persona fisica, uno che individuerete. A me fa più piacere sapere da cittadina romana a zero servizi e con una città incontrollabile che c'è 1 miliardo di soldi miei che una volta tanto invece di finire nelle tasche dei soliti noti o degli amici e degli amici vanno a finire in servizi. Quindi non mi pare importante sapere se sarà Roberta Lombardi piuttosto che Marcello De Vito piuttosto che un signor Pinco Pallo qualsiasi, l'importante è che a me quei soldi miei, dalle mie tasche, ritornino in servizio. Però il primo punto, insomma, della vostra idea di governabilità è che dalle risorse ordinarie del bilancio del Comune di Roma, senza aggiungere sovrattasse eccetera, si possono già oggi prendere 1 miliardo della spesa attuale e cambiarne la finalità a fini di sostegno di servizi e così. Ho capito bene? Sì. Ha capito benissimo. Se vuole le snocciolo anche tutte le per non fare numeri demagogici, così snocciolare tu. No, la cifra però è interessante. La cifra è interessante, no, questo è il caposaldo. Le do un'altra cifra, 1 miliardo e mezzo di recupero di soldi che possono venire dall'edilizia residenziale pubblica attraverso oneri concessori che non sono mai stati riscossi, attraverso diritti di superficie che non sono stati mai fatti pagare ai costruttori, quindi ai costruttori il Comune di Roma dava in concessione un terreno suo su cui costruire e dopo X anni avrebbero dovuto però pagare la concessione e non è mai stato fatto, polizze assicurative che non sono mai state escusse per una stima prudenziale, dico prudenziale, di un altro 1 miliardo e mezzo. Queste sono basi programmatiche. Nel programma voi metterete questo. Soldini. Però Roberta Lombardi, alla fine dovrete decidere chi del movimento si candiderà. Come lo deciderete? Perché si dice anche, qualcuno ha detto lo potrebbe fare lei, lei ci dice non importa chi lo faccia, però ci sarà un metodo, ce lo spieghi? Come deciderete il candidato sindaco? Allora, il metodo che utilizzeremo sarà il metodo che abbiamo utilizzato finora per individuare tutte le figure dei portavoce a tutti i livelli istituzionali, quindi persone che si propongono, mettono online la propria esperienza, il proprio curriculum e vengono poi liberamente scelte dagli iscritti al movimento. E sarà così anche stavolta? Assolutamente, così sono insomma nate tutte quelle persone che poi negli anni con il lavoro sono adesso più note all'opinione pubblica. Per questo diciamo poi alla fine che non è importante che ci sia una faccia piuttosto che un'altra, ma che ci sia la concretezza e la credibilità che il nostro lavoro nelle istituzioni ha portato in questi anni. Cioè un cittadino sa che se va un candidato 5 Stelle rispetterà gli impegni che ha preso in campagna elettorale, indipendentemente che sia appunto Roberta Lombardi o altri. Senta, posso chiederle un giudizio? In questi 2 anni e mezzo lei ha visto il più delle responsabilità di quello che poi determina l'esito, cioè questa lotta finale tra PD che taglia la testa a Marino e Marino che resta un po' lì nel bunker per qualche giorno, ma insomma non è proprio dell'idea di dimettersi ancora. Che cosa ci dice di più? Ai vostri occhi è più grave la crisi del PD, che nel frattempo è da sfondo, ma non dimentichiamocela, perché il PD a Roma si autosventra come non è mai avvenuto nella storia trentennale, PC, PDS eccetera, in nessun'altra città italiana. Lì siamo nella capitale, commissariato, sezioni chiuse, capi corrente implicati con l'accusa di collusività ereditata e innestata dalla destra orrenda degli anni della giunta di Alemanno, che non dimentichiamo mai. Alessandro, mi sembra giusto e condividi, ma per voi politicamente conta di più il guaio da cui non è ancora uscito il PD oppure l'aspetto personale di Marino? Che cos'è l'aspetto che conta di più per voi, per domani, per il futuro? È una città liberata, questa è la cosa che ci interessa di più, perché noi abbiamo avuto una città ostaggio degli affari privati del PD e delle sue correnti per un anno, da che è scoppiato il 3 dicembre dell'anno scorso, c'è stata la prima retata di Mafia Capitale. Tutto il PD si è nascosto dietro la faccia fintamente onesta di Marino, roba che prima, fino a un mese prima, l'avrebbe sciolto volentieri nell'acido, e ha iniziato a tenere questa città sospesa per un anno. Non è successo niente in quest'anno, Orfini ha commissariato ma non è cambiato niente nella vita dei cittadini romani, e io vivo a Roma e vivo la quotidianità di questa città, non è cambiato nulla se non in peggio, che sia chiaro. Quindi noi abbiamo avuto una città sospesa per un altro anno per i fatti privati del PD, e Renzi è responsabile di questo, perché ha permesso, attraverso il commissariamento di Orfini, che non è servito a nulla, di tenere questa città sospesa sul baratro per un altro anno, mentre nel frattempo venivano fuori altre piacevoli collusioni tra esponenti politici di destra e di sinistra con i gentiluomini del mondo di mezzo di Mafia Capitale. E adesso del resto ci sono altri 9 mesi di a bagno maria di commissariamento, mi pare di capire, quindi... Sì, si voterà credo a maggio. Beh, la legge questo prevede, la prima finestra utile sono le elezioni di primavera, sperando che il posso dirle che io personalmente non capisco, dirò mai queste leggi che obbligano ad aspettare 9 mesi, 10 mesi, cioè non... Insomma, è la burocrazia, dire. Ma perché cioè, burocrazia, in altri paesi, sì, quando c'è un problema urgente nazionale o locale, si vota in poche settimane, mi sembrerebbe logico. Dovrebbe, lei che quante dice, cose sono illogiche, Lombardi, non dovrebbe essere così, eh? Io dico che se si fosse dimesso un anno fa avremmo avuto tutto il tempo in tranquillità di arrivare a elezioni in pochi mesi, avere un sindaco nella pienezza delle sue funzioni, non lasciarci a bagnomaria. No, ma chiaro, quello che si sta dicendo, perché io volevo ricordarvi anche questo, certo, c'è il giubileo, parte il giubileo, e non è stato fatto nulla a Roma in questi mesi, da marzo a fine agosto che sono partiti i primi timidi cantieri, perché poi hanno fatto partire le bricioline praticamente. Non è successo. Però nulla. Ci diceva prima Sabella che i soldi sono arrivati all'11 settembre, quindi lui dice in un mese sono arrivati i soldi. Però a sentire il governo è Roma che non si è mossa, e si è mossa l'ultimo momento, c'è la giunta Marino. Il rimpallo sono, è tale. Le anche perché ormai, come è evidente, tra Renzi e Marino, il primo diceva appena posto. Esatto. Comunque Roberta Lombardi, la ringraziamo per essere stata con noi. Buona giornata, ovviamente. Grazie a voi. Renzi, tu dici, Oscar, ma sai che pare che Renzi, o meglio Marino, avesse chiesto almeno l'onore delle armi, cioè una dichiarazione pubblica di stima. Letto, e Renzi gli ha detto: ma non ci penso nemmeno, ce lo siamo tolti di dosso. Come Varoufakis, lui fa così: ce lo siamo tolti di dosso. Il prossimo che toglierà di dosso chi è? Ah, questo non lo so. Non lo so. Però l'evidenza è che insomma è cinico e spietato, la politica è un po' così, però come sullo diceva sfondo Formica, teniamolo bene, come diceva Formica, è sangue. Sì, ma detto vabbè. Questo sangue guarda che le elezioni a Roma, che adesso ci trasciniamo per 9 mesi, saranno la cosa su cui Renzi per forza si deve impegnare, come no. Lì c'è la sua faccia sopra tutta questa vicenda, è stato lui che ha rallentato quello che ricordava adesso l'esponente 5 Stelle, è vero che voleva mandarlo via e poi aperti no. fascicoli hanno riabbracciato Marino, è andato a Bruno Vespa a dire il sindaco si metta una mano sulla coscienza e adesso per il PD l'unica vera forza è che la destra ha perso la faccia con Alemanno, e quindi bisogna vedere in questo a Roma verso dove si volgerà. Però è chiaro che 5 Stelle partono in vantaggio, poi non so se Marchini altro, questo lo vedremo, questo lo vedremo, faremo lo il vedremo. Nostro mestiere, per così dire. Sentiamo Flavio da Roma. Buongiorno Flavio. Ah, buongiorno, ho esaurito tutta la mia adrenalina nell'attesa. No, no. ma così è più tranquillo, meglio. No, no, no, io ho lavorato un po' di qualche anno fa nel Comune di Roma come consulente e appoggio in pieno quello che ha detto il dottor Sabella e appoggio in pieno quello che ha detto la dottoressa Lombardi, comunque... Cioè, nel senso cioè, che Roma ingovernabile. È ingovernabile, per, devo dire la verità, nel mio piccolo io posso dirvi che i dipendenti con cui ho lavorato sono tuttora, perché alcuni mi sentono, sono tuttora persone squisite. Il problema è che è una macchina veramente troppo pervasa da burocrazia. Da questo punto di vista, anche se sono un ex elettore PD, appoggio in pieno quello che dice Renzi. Che c'è troppa burocrazia. Ho capito, ma non solo a Roma, cattiva. Flavio. Cioè, no, per carità, non solo a Roma, per carità. In tutta ma Italia. Io giudico la mia città che vivo giornalmente certo. In mezzo al traffico per andare al lavoro e stressato al ritorno per i pochi minuti che posso riservare alla mia famiglia. Insomma, abbiamo capito da tutti, ascoltatori e ospiti, che Roma è ingovernabile. La cosa che veramente mi lascia perplesso è una sola. Ieri la prima cosa che ho pensato è al testo unico che mi sono studiato illo tempore quando ho partecipato in altro comune, cioè? A un concorso. E il fatto che il testo unico dichiari che bisogna attendere la prima tornata elettorale per poter eleggere. Esattamente. Quindi sei mesi. Mi perplesso che ma cosa? Non lascia perplesso. Essere un po' maliziosi che abbiamo aspettato così tanto tempo per cacciare Flavio, Marino. Non siamo diplomatici. Marino, Questo serve ai partiti per regolare per i conti. Per quando sono per pronti, no? Perché il punto anche a Milano hanno beccato funzionari che prendevano le mazzette di soldi. Vero, una settimana fa. Però il punto è che nella descrizione di Roma è che dai livelli apicali a quelli intermedi a quelli bassi trasversalmente così. Senza che gli assessori lo capiscano, lo sappiano, continua a essere tutto così. Questa è una condizione che però a prendere di volta in volta, passano gli anni e ce la raccontano sempre. Esatto. Io devo dire la verità, a me va bene tutto, però anche il sindaco che poi dice di andare a cena con Tizio e Caio ogni volta è qualcosa che non va, certamente. Caro Oscar, qui dobbiamo chiudere, abbiamo un minuto, vogliamo dire qualcosa ancora in conclusione? Beh, di sì. Roma ci occuperemo. Aspetta, io voglio dire una cosa però, sì. Perché ieri è successo una cosa, nella trasmissione con un ospite che è la relatrice del disegno di legge sulle unioni civili, la Cirinnà, sì. Che siccome è stato un equivoco, e allora io ieri ho chiamato subito la Cirinnà e la Cirinnà mi ha detto: ma io non avevo capito che tu stavi difendendo la pensione di reversibilità. Dico: io non ho capito la sua risposta. E allora se ci siamo spiegati, ma mi fa piacere dire ai nostri ascoltatori tutto chiaro, tutto preciso. Anzi, un saluto, grazie alla Cirinnà, anche al marito, che è stato molto simpatico. Al marito, perché era lì di mezzo mentre parlavamo a telefono. Questo è il punto. Solo per questo. E comunque nessun problema da questo punto di vista. Va bene, noi ci fermiamo, ci ritroviamo lunedì alle 8:15. E caro Oscar, buon weekend. Che devo dire? Certo. A tutti, anche ai romani. Speriamo che Marino diventi meno arrabbiato. Meno arrabbiato, la cocaina in tasca, certo che questa è forte. Dall'idea di cosa pensa di Renzi, uno spacciatore. No, la traduzione è questa. Dai, a lunedì.